Ritmi balcanici oggi all'altra Europa, perché andiamo a scoprire il ritmo del bazar tipico balcanico. Si chiama Charsia, anzi, questa è la giusta dicitura, e abbiamo preso spunto da un dossier molto bello che sta realizzando un'amica dall'altra Europa, Mariola Rucai, che è corrispondente, collaboratrice dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, e appunto sta realizzando questi dossier nell'ambito del progetto SINET secondo di cooperazione tra Italia e Sud-Est Europa. Coinvolge la provincia autonoma di Trento, 6 regioni italiane e 46 enti locali dei Balcani. Insomma, ci piace dire anche queste cose perché vuol dire che c'è del lavoro dietro. E proprio a Sarajevo si trova in queste ore Mariola. Ciao Mariola, buon sabato. Ciao. Allora, ho sbagliato, credo, immediatamente la pronuncia. Charsia? È questo il nome del bar? Sì, si potrebbe dire Charsia, di solito in serbo-croato, appunto nelle Charsie serbe e bosniache, ma anche Charsi in turco, Charsia in albanese, ma anche semplicemente bazar. Quindi è il bazar tipico dove tu adesso ti trovi in questo momento, si sentono anche i rumori. Quali sono le caratteristiche di questi bazar? Ma innanzitutto è appunto un mercato, solo un mercato molto orientale, quindi tipicamente ottomano, che su cui verteva un po' tutta la vita cittadina delle città ottomane tradizionalmente. E ci sono praticamente dei quartieri solo commerciali in cui appunto non si abita, ma si hanno appunto i negozi, le botteghe dove si riesercitano le varie professioni e mestieri di cui una città ha bisogno. E quella che è la cosa più, appunto, hanno anche dal punto di vista architettonico sono interessantissime, perché sono un connubio di architettura ottomana, ma anche di vari influssi che hanno caratterizzato nei secoli le varie, insomma, la storia balcanica. E sono soprattutto dei centri multietnici, dei centri in cui si incontrano tutte le etnie possibili e immaginabili, e tutto, insomma, all'insegna dello scambio e della sopravvivenza reciproca. Certo, quindi un luogo di incontro, un luogo vitale, perché si scambiano non solo merci ma anche conoscenze, anche informazioni, anche culture, e tu le stai analizzando da un punto di vista particolare, che è quello del patrimonio musicale. Cosa stai cercando? E cosa stai trovando? Sì, ecco, è un punto di vista molto interessante, perché appunto i Balcani sono famosissimi per la loro musica, insomma, molto ricca e molto variegata, insomma, con degli influssi che provengono un po' da ogni dove, e tutto questo appunto si unisce nella Charsia, appunto perché la Charsia è il luogo fisico dove si incontrano tante culture e tanti influssi, appunto, sia occidentali, orientali, medio orientali, quindi di tutto e di più, ma anche autoctoni locali, insomma, pre-ottomani. E tutto questo, è il risultato è quel ventaglio, insomma, ricchissimo di musica che abbiamo noi adesso, che va però molto oltre quello che si potrebbe trovare nel world music, non so, Bregovic o Boban Marković. Insomma, che sono, insomma, i nomi un po' più conosciuti, però c'è tutto un altro, ecco, c'è sottobosco musicale, esatto, è tutta una storia musicale molto importante. E dacci qualche assaggio, ci hai mandato qualche musica, di quale ci vuoi parlare? Ma ad esempio ci sono a Sarajevo, ci sono le Serdalinke, che sono delle canzoni d'amore, ma d'amore doloroso, insomma, è un po' la stessa radice che ha anche la saudade portoghese, che proviene probabilmente da una parola turca d'origine araba, e che vuol dire appunto amore, nostalgia e appunto dolore. E sono delle canzoni bellissime, molto, molto profonde, cioè, i loro testi sono delle poesie estremamente sensibili, estremamente che è quella che è quella che stiamo ascoltando di sottofondo. Cambiamo genere invece? Si potrebbe ad esempio andare sul Kaba degli egiziano balcanici. Abbiamo un po' tutti in questi paesi, abbiamo una minoranza egiziana che ha perso ormai la lingua e la provenienza come ricordo etnico, però sono importantissimi per noi, perché sono quelli che mandano avanti la musica delle Chashian, nel senso loro nascono col violino in mano o col clarinetto nella stramaggioranza dei casi. E il kabah, ad esempio, è un genere che parte lento, lamentoso, doloroso, e ad un certo punto poi esplode in una serie di ritmi appunto ballabili, volendo. E poi Mariola, scusami ancora per la pronuncia, c'è la Kaljija? Ok, perfetto. Che è un altro genere molto particolare. Sì, ecco, la Chalgia è esattamente un genere che proviene direttamente dalle città turche, quindi dai ritmi di Istanbul. Sono i musicologi riconoscono proprio dei ritmi particolari che sono fedeli appunto alla musica che veniva prodotta a Istanbul o nelle altre, insomma, città di spicco della Turchia, e che sono state importate, diciamo, nei Balcani da chi viaggiava, appunto dall'elite culturale e politica che la riproduceva esattamente tale. Infatti è un tipo di musica che è probabilmente il più globalizzato nell'area balcanica. Infatti ad esempio una regista bulgara, Adela Peeva, ci ha dedicato un documentario intitolato Di chi è questa canzone, perché appunto vi sono delle canzoni o perlomeno delle melodie che sono identiche, simili in tutta l'area, e tutti rivendicano appunto la loro autenticità, dicendo che appunto che è propria, invece insomma è un ottimo messaggio di unione. Il ritmo del bazar, il bellissimo articolo, ma ci saranno anche altri dossier di Mariola Ruccai, e come sempre balcanicaucaso.org è il sito per poterlo seguire, per poterlo leggere. Ciao Mariola, ti lasciamo alla musica di Sarajevo e buon ballo, perché lo sappiamo che alla fine ballerai anche tu, vero? Grazie. Ciao, buon sabato. Ciao, buon sabato.